Gli obiettivi dell'accordo sono nell'ordine. Primo, superare una serie di difficoltà e di divergenze che abbiamo avuto nel confronto tra terzo settore e sindacati negli anni passati e che si sono concretizzati in un ricorso fatto dai sindacati al TAR del Lazio sulla legge che ha permesso una rappresentanza del terzo settore nel CNEL. Il punto da chiarire era: qual è l'identità del terzo settore? Alla fine ci siamo messi d'accordo che l'identità del terzo settore è quello di soggetti che organizzano la partecipazione dei cittadini, sono espressione della rappresentanza di un percorso di cittadinanza, di partecipazione della cittadinanza, e dall'altra parte anche sono imprese, organismi che producono beni e servizi e producendo beni e servizi creano lavoro. Non c'è una diciamo contraddizione tra queste due facce dell'identità del terzo settore. Il terzo settore è un'identità unitaria che in questa sua forma può dare un contributo, può essere soggetto costituente del nuovo welfare, di una nuova stagione di partecipazione nel paese. Perché è stato difficile mettersi d'accordo su questo schema? Perché da un lato i sindacati giustamente avevano la preoccupazione che le innovazioni di cui noi siamo portatori non si scaricassero sul mercato del lavoro in modo distorto, non fossero un canale ulteriore di precarizzazione del lavoro. Abbiamo risolto questo problema. Noi non pensiamo che l'innovazione debba avvenire a danno dei diritti sul lavoro, anzi ci impegniamo per una fase di contrattualizzazione, di sindacalizzazione nel mondo del terzo settore che da quando c'è il forum è già fortemente aumentata. Dall'altro, perché c'è una cultura propria, diciamo, di questa stagione storico-politica che tende a ridurre, tagliare, marginalizzare lo Stato sociale e nei processi di privatizzazione che questa cultura determina spesso si tende ad utilizzare o a dichiarare o a preconizzare l'utilizzazione del terzo settore come un fattore in più della privatizzazione selvaggia, del taglio della riduzione dello Stato sociale. Ma noi siamo assolutamente contrari a questa prospettiva, anzi noi ci sentiamo un soggetto che è parte di un processo di espansione dello Stato sociale e di garanzia dell'universalizzazione dello Stato sociale, quindi su questi punti ci siamo trovati infine d'accordo con i sindacati. Innanzitutto c'è il confronto col governo contro l'ulteriore taglio della spesa sociale, contro il taglio dei finanziamenti alle regioni e agli enti locali per i servizi che si riducono in una minore offerta di servizi nei confronti del cittadino. Siamo per un impegno a negoziare col governo una nuova stagione di politiche sociali. Il primo impegno comune che abbiamo con i sindacati è di combattere questa lotta per riaffermare la priorità delle politiche sociali, la priorità delle politiche di coesione sociale come risorsa dello sviluppo del paese e non come palla al piede dello sviluppo del paese.